Mi sento bene solo quando sto bevendo. Mi sento bene solo quando sto viaggiando. Mi sento bene solo, mi sento bene solo. Mi sento bene solo quando sono solo. Mi sento bene solo quando sto bevendo. Mi sento bene solo quando sto viaggiando. Mi sento bene solo, mi sento bene solo. Mi sento bene solo quando sono solo. No, ma non è vero, non lo penso veramente. È solo che ogni tanto devo andarmene niente. Mettermi a dormire in un prato ad Hyde Park. Farmi un giro su una giastra, fermo a Luna Park. Andare su e volare senza neanche il desiderio di atterrare e ritornare giù alla base militare. Ma sappiamo cosa cambia, siamo tutti militari, militarizzati, militati in mete con miti diversi che poi sono sempre gli stessi. Disperatamente ricerchiamo l'autentico, chi si distingue dal moderno che cantano. Portatori di progetti nuovi che però alla base sono l'eccesso dell'eccesso del compromesso. Stacco il mondo da qua sotto, come shuttle nello spazio. Perdo tempo e mi rilasso, chiudo tutto e me ne sbatto. Mi sento bene solo quando sto bevendo. Mi sento bene solo quando sto viaggiando. Mi sento bene solo, mi sento bene solo. Mi sento bene solo quando sono solo. Mi sento bene solo quando sto bevendo. Mi sento bene solo quando sto viaggiando. Mi sento bene solo, mi sento bene solo. Mi sento bene solo quando sono solo. E solo quando sono solo. Oggi mi scivola tutto addosso. C'è questo solido senso di apatia, un'infinita vastità del cazzo che me ne frega di quello che succede se non si tratta della parmigiana di zia. E le occhiaie, sai, non son per la stanchezza, tantomeno per la noia stabilitasi in me. È che mi pare come di aver già vissuto tutto. La prospettiva non infonde novità, mi sento vuoto ed è brutto. Quindi stacco il mondo da qua sotto, come shuttle nello spazio. Perdo tempo e mi rilasso, chiudo tutto e me ne sbatto. Mi sento bene solo quando sto bevendo. Mi sento bene solo quando sto viaggiando. Mi sento bene solo, mi sento bene solo, mi sento bene solo quando sono solo. Mi sento bene solo quando sto bevendo. Mi sento bene solo quando sto viaggiando. Mi sento bene solo, mi sento bene solo, mi sento bene solo quando sono solo. Bene è solo quando sono solo. Bene, bene è solo quando sono solo. Il tasso di deprivazione materiale, valore che traduce povertà in percentuale. Un giovane su quattro fra i 15 e i 29 vive questa situazione nei paesi dell'Unione. La povertà in Italia aumenta più dell'anno scorso. Sempre più italiani scelgono di andare via. Tra i paesi dell'Europa ci troviamo al terzo posto, prima solamente Romania e Bulgaria. In perenne sofferenza il servizio sanitario. Il ministro afferma oggi troveremo un altro piano. E mentre l'80% dei medici crede nell'IA, io penso soltanto alla parmigiana di mia zia. Zia, zia. Mi sento bene solo quando sto bevendo. Mi sento bene solo quando sto viaggiando. Mi sento bene solo, mi sento bene solo. Mi sento bene solo quando sono solo. Mi sento bene solo quando sto bevendo. Mi sento bene solo quando sto viaggiando. Mi sento bene solo, mi sento bene solo.